Dolce donna sei, combattuto questo guai, ti ho fatto conoscere, sai, l'odore del mio dolore, scusa ora e comunque tutto sto casino basta, il profumo è nostra, la festa, dei miei sorrisi coi tuoi, dolce amica resta. Dolce donna sei, combattuto questo guai, ti ho fatto conoscere, sai, l'odore del mio dolore, scusa ora e comunque tutto sto casino, il profumo tra noi resta. La festa, dolce amica resta. In fondo eravamo dentro un nuovo sogno, dentro questo bisogno di essere compresi. Il tuo dolore, il mio dolore, il nostro dolore e tutto quanto poi svanisce. La vita ti darà di meglio, la vita ti cullerà come in un sogno. Non smettere di lottare, in fondo ad un sorriso si può ancora amare. Tutto sei come... Dolce donna sei, combattuto coi tuoi guai, ti ho fatto conoscere, sai, l'odore del mio dolore, scusa ora, e comunque in tutto sto casino, il profumo è nostra, la festa dei tuoi sorrisi, tra di noi, dolce amica resta. Non è bastato una lacrima tra noi, quel sorriso spento, a volte l'inganno di tutti i sensi, porta turbamenti e quando tutto non si capisce, forse non dobbiamo capire tutto con la logica, rimane solo un'altra tavola da mangiare in questo mondo, combattendo contro i denti, contro i ponti e tutto quanto. Gli inganni del mondo e tutto quanto intorno sembra poi svanire, se puoi ricordare le pene sembra quasi guarire, e in fondo non abbiamo mai fatto del male, in fondo ti ho voluto bene, soltanto un'amica sai in questo mondo, e alla fine si rimane soli, si rimane nel profondo.